Vengo anch'io, hanno detto ieri al vertice del PPE, nel senso che l'hanno fatto loro, l'hanno fatta loro l'indicazione per il premier italiano. E Mario Monti, invitato a sorpresa con Berlusconi, che come un tubero aveva fatto dire ad Alfano: questo lo cacciamo. E invece tutti i capi del PPE alleati di Berlusconi gli hanno detto: lo invitiamo. E a Monti, a te gli diciamo che è lui il candidato, fai la cortesia, resta a casa. Alcuni dicono in posizione, ma che ragionevolezza. Devi vedere di nascosto l'effetto che fa. Allora, ma come reagisce il centrodestra di fronte a questo? In maniera diversificata. Prendete il giornale, titolo: Italia rischio colonia. Qui è evidente. I fan del Cavaliere dicono: l'Europa non ce lo deve imporre, è un trucco. Eravamo lì a dire: Berlusconi, ti sei risvegliato, hai cacciato Alfano, gli fai ordinare, gli ordini quello che vuoi, e poi improvvisamente cambi linea e dici un passo indietro. Libero invece no, Libero si divide salomonicamente. Da una parte Gian Piero Mughini che dice: meglio, meglio Monti. Dall'altra Maurizio Belpietro, che rispettosamente e coerentemente a quello che ha sempre detto, ha detto: no, veramente la sua ricetta è totalmente sbagliata. Dopodiché Maroni ha seguito l'appello lanciatogli da questa tribuna, perché ha detto: Berlusconi ci prende in giro, io perdo voti se mi alleo a Berlusconi. Insomma, il caos. AN, i giornali dicono, sarebbe pronto a spaccarsi in tre diversi pezzi. Nessuno ci capisce niente. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. E il funerale? Ma di chi è il funerale? Il reddito disponibile delle famiglie? Record in termini negativi, eh? Il meno 3,6% pro capite. Ma dice: ma gli italiani sono molto patrimonializzati, è per questo che gli vogliamo mettere la patrimoniale, dice il PD. Peccato che ieri la Banca d'Italia vi dica che anche i patrimoni arretrano al livello del 1990, meno 3,4%. E che cosa volete fare? Gli vogliamo mettere anche una patrimoniale agli italiani che perdono reddito e patrimonio, patrimonio e reddito in termini record? Ma quanto siamo intelligenti a tosare una pecora oramai esangue. Quanta pazienza, italiani. Ma perché avete tutta questa pazienza?